Poi il tipo scrive e dice, ok, che colori hai? E l'altro dice, beh, c'è il blu. E l'altro dice, ah sì, ma non ci sarebbe anche il rosso? E così. In India, per esempio, abbiamo l'oroscopo sul sito. Perché un altro esempio di localizzazione, di glocal. In India non si può assolutamente immaginare fare del business senza consultare il suo oroscopo. Non si fa un job interview senza l'oroscopo, non si firma un contratto. Io non ci credevo all'inizio. Mi ha fatto vedere un articolo dove questo businessman molto famoso in India doveva firmare un contratto, un multi-billion dollar contract, era scritto nel giornale, e che aveva annullato la firma perché l'oroscopo non era favorevole. Dai social network professionali a quelli per gli acquisti, vero e proprio fenomeno del momento, i siti di social shopping, i gruppi di acquisti collettivi online. Siti come Groupon, Groupalia, Glamour, Tuangon e simili, in cui attraverso i coupon di gruppo è possibile acquistare prodotti e servizi a metà prezzo. Groupon, leader del settore, vanta 50 milioni di clienti e vendite per 800 milioni di dollari. Nato solo 2 anni fa, negli ultimi 12 mesi ha registrato una crescita del 200%. In pochi mesi, pensate, ha raggiunto in Italia i 5 milioni di utenti. Prossimo allo sbarco in borsa, Groupon ha recentemente rifiutato un'offerta da 6 miliardi di dollari firmata a Google. Ne abbiamo parlato con Ombretta Capodaglio, marketing manager della divisione online di Nielsen. Questi siti sono, diciamo, un modello di acquisto in gruppo, che consente a più persone interessate allo stesso oggetto o servizio di unirsi per ottenere un risparmio che spesso supera anche il 50%. Si tratta di offerte di servizi legati prevalentemente al tempo libero, vengono inviate via mail alle persone che si sono iscritte precedentemente al sito, e l'offerta va a buon fine se viene raggiunto un numero minimo di adesioni entro le 24 ore. I motivi che a nostro avviso hanno determinato questo grosso successo sono sostanzialmente 3. Il primo è sicuramente il fatto che rispondono alla crescente esigenza di risparmio dei consumatori con l'offerta di servizi a prezzi molto scontati. Il secondo fattore è insito proprio nella tipologia di servizi che vengono offerti, servizi che superano le barriere allo shopping online, che invece rileviamo ancora per l'acquisto di prodotti per i quali, diciamo, è importante il punto fisico per poterli toccare con mano. Il terzo e forse più importante fattore è la crescente diffusione della rete. Tra i siti più visitati, sappiamo, ci sono i social network, che sono proprio i social network che consentono, grazie alla viralità, diciamo, che possono generare con la diffusione dell'offerta a tutti i conoscenti, amici, che consentono di diffondere questi siti, che quindi a nostro avviso hanno contribuito maggiormente al successo di Groupon. Un'ultima considerazione che secondo noi è interessante è proprio il fatto che spesso si tratta di servizi per i quali non c'è un reale bisogno, un bisogno tale da attivare il consumatore in prima persona nella ricerca e nell'acquisto. Il fatto di ricevere via email ogni giorno nella propria casella, quindi queste offerte, porta ad acquistare, spinti dalla prospettiva di questo grosso risparmio, dei servizi che magari senza averli ricevuti, diciamo, non si sarebbero nemmeno acquistati. Non solo cene e massaggi, presto la formula si estenderà a settori inaspettati, ci dice Andrea Gualtieri, Country Manager Italia per la spagnola Groupalia, seconda nel nostro paese dopo Groupon, con 1,5 milioni di utenti. Il concetto di tempo libero è sempre più vasto, e quindi dalle offerte tipiche di questo mondo del gruppo d'acquisto, che sono quelli della ristorazione, del benessere, spa, massaggi e quant'altro, anche alle visite dentistiche, o quindi quelle un po' specialistiche, a prodotti di interesse. Quali servizi o prodotti potrebbero entrare nella rosa delle offerte, secondo lei, come sviluppo futuro? A questo questo mondo si stanno collegando sempre aziende più grandi e quindi mi piacerebbe poter offrire servizi sempre più interessanti, sempre più vari, come quelle delle assicurazioni, delle banche, noleggio delle auto o proposte di divertimento, i parchi o quant'altro. Quindi da realtà diciamo piccole o medie a realtà decisamente più nazionali, perché se un'offerta è interessante a Milano e a Roma nello stesso modo. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, oggi puntata speciale dedicata alle voci, alle storie, delle tendenze del momento. Dicevamo poco fa del boom dei siti per gli acquisti scontati di gruppo, anche nell'offline vince il risparmio, la qualità al giusto prezzo. La conferma arriva dal boom dei farmers market, i mercati degli agricoltori. In Italia, dove è attiva la più estesa rete europea di vendita diretta dei produttori agricoli, sono in crescita del 30%, frequentati, pensate, da 8 milioni e mezzo di italiani, spesa media 26 euro. Dai mercati viene una risposta ad un nuovo stile di vita e ad un modello di consumo più sostenibile, ci dice il presidente di Coldiretti, Sergio Marini. Questo è l'unico segmento della distribuzione alimentare in forte crescita, è un modello innovativo e pertanto tutti i modelli innovativi all'inizio hanno un boom importante, almeno quelli che portano valori positivi come questo. Questo sistema avrà successo molto molto importante e le motivazioni a mio giudizio sono sostanzialmente tre, quelle più importanti. Una è la grande sostenibilità ambientale del percorso, per cui parliamo di un prodotto chilometro zero, per cui venduto sul luogo di produzione, dove c'è anche una forte riduzione degli imballaggi, non OGM e garantito rispetto a questo. Poi il prodotto generalmente che rispetto alla qualità che ha intrinseca ha un prezzo molto vantaggioso, del 30% inferiore a quello previsto dall'SMS consumatori, e questo con accordo con le associazioni dei consumatori. Poi c'è anche la socialità che si recupera dentro il farmer market, la possibilità di parlare direttamente con i produttori, conoscere i processi produttivi. Questi sono i tanti elementi che fanno di questo modello distributivo un modello di successo. 8 milioni di italiani che almeno una volta hanno visto il farmer market e soprattutto che nella stragrande maggioranza dei casi sono molto molto soddisfatti. Questi sono elementi sui quali puntare fortissimamente per, come dire, implementare in tutto il territorio nazionale la rete. Come dire, quando c'è innovazione e novità nella proposta si possono anche rilanciare i consumi. Il consumatore può andare sul sito www.campagnaamica e lì trova tutte le i siti dove sono aperti i mercati degli agricoltori, tutte le città in cui questi sono presenti, anche i giorni di apertura e anche l'assortimento che può ricercare, in maniera di avere un'informazione completa su tutte le produzioni e sui prezzi. Nella stragrande maggioranza dei casi si applica una riduzione del 30% del prezzo rispetto a quello che è il prezzo medio sul territorio dell'SMS consumatori, il servizio fatto dal Ministero dell'Agricoltura, per cui un qualsiasi consumatore può verificare naturalmente che ci sia questa corrispondenza. La crisi, lo andiamo ripetendo da tempo, ha cambiato molto le abitudini di consumo, ha fatto emergere pratiche virtuose, consumo responsabile, riciclo, riuso e ha visto consolidarsi settori inaspettati. Un altro dei fenomeni in evidenza in questi ultimi mesi è l'home shopping, gli acquisti da casa seduti in poltrona. Questo spiega il boom dell'e-commerce, ormai decollato anche in Italia, il settore nel 2010, dati di Netcom, il consorzio del commercio elettronico italiano, ha segnato una crescita del 15%, raggiungendo i 6 miliardi e mezzo di euro. Si calcola che oggi gli acquirenti online in Italia siano 8 milioni e il 2010, ricordiamolo, è l'anno in cui è sbarcato sul mercato italiano un gigante come Amazon. Ma home shopping significa anche acquisti via posta, con i cataloghi cartacei che conoscono un nuovo successo, e via televisione, con i canali dedicati 24 ore su 24. Negli ultimi mesi, a proposito di sbarchi di colossi, sono arrivati in Italia la tedesca HS24 e l'americana QVC, secondo canale TV americano per dimensioni. Ecco quali sono i segreti di questa formula per Steve Hoffman, numero uno di QVC Italia. Noi crediamo fermamente che il mercato italiano sia pronto per servizi come i nostri. Noi offriamo un modo completamente diverso di fare shopping per il consumatore italiano. E non sto parlando dello shopping in TV, ma di una diversa esperienza di shopping in assoluto. Il consumatore può stare comodamente seduto a casa propria e godersi i nostri programmi con una selezione di prodotti che renderanno la sua vita migliore e più facile. Noi offriamo il miglior servizio di garanzia. Se il prodotto non gli piace, lo può restituire entro 30 giorni e riavere indietro i suoi soldi senza domande. Abbiamo messo in piedi uno standard di servizi nuovo per l'Italia. Negli acquisti tradizionali è molto difficile restituire un prodotto e riavere i propri soldi. Normalmente ci viene offerto un credito che poi dobbiamo comunque spendere. Noi facciamo uno shopping a rischio zero per il consumatore. Spazio agli outsider e alle novità anche nella moda. Abbiamo scelto uno dei nomi emergenti, quello di Chicca Lualdi. Le sue collezioni B-Queen sfilano a Milano nella sezione New Upcoming Designers e sono in vendita da Saks Fifth Avenue a New York, una delle vetrine simbolo della moda nella Grande Mela. L'ha incontrata per noi Marta Cagnola. Arrivare a New York e vedere su Fifth Avenue la vetrina dedicata ai miei capi è stata una delle emozioni penso più grandi in assoluto da che ho avviato la mia attività. Per spiegarlo ai nostri ascoltatori, arrivare appunto nelle vetrine di Saks Fifth Avenue per uno stilista è una cosa davvero importante, cioè non sembra un punto di partenza, sembrerebbe quasi un punto di arrivo. Ma in realtà io la mia attività è incominciata 2 anni fa con questo percorso che è stato molto fortunato e molto aiutato da Camera Nazionale della moda. Io ho vinto un concorso di Camera che è il Fashion Incubator 2 anni fa e da allora mi hanno aiutato ad entrare innanzitutto a sfilare a Milano, a Tokyo, a Mosca e poi ad entrare in contatto con gli interlocutori giusti. Questa iniziativa era un'iniziativa sempre promossa da Camera Nazionale della Moda e da Saks, dicendo a Saks scegli tu, visto che sei tu poi che devi vendere le collezioni, gli stilisti italiani, giovani, che secondo te sono più promettenti e possono funzionare sul mercato americano, e Saks ha scelto noi quattro: Chicca Lualdi, Albino e Marco De Vincenzo e 6267 anche, quindi Aquiliano Rimondi. Quindi una grande opportunità essere poi vicino a, con i tuoi capi appesi vicino a Giorgio Armani, Marni e queste grandi aziende fa effetto, però credo che sia il punto di partenza perché c'è ancora tanto da fare. Personalmente il mio business è ancora piccolino, il mercato americano è enorme e credo che questo sia di buon auspicio perché il consumatore americano è molto affezionato al Made in Italy, ai brand italiani e che oggi si interessa a dei nuovi marchi e a dei giovani vuol dire che il mercato è un mercato maturo che non acquista solo per marchio ma che va a cercare magari anche un prodotto nuovo o per il piacere di vedere qualcosa di nuovo, non di acquistare un marchio fino a se stesso. Cosa è piaciuto particolarmente di tu agli americani? Mi è stato detto in particolare i tessuti e il fitting, cioè la vestibilità degli abiti che è particolarmente adatta a vestire più donne, dalla più longilinea alla donna più normale, insomma, e magari con un fisico non da modella. E sicuramente la portabilità e quel po' di femminilità che rende anche il capo quotidiano sfizioso. Questa è l'osservazione che è stata fatta. Dalla moda al design, meglio al graphic design, settore protagonista di una bella mostra alla Triennale di Milano, con una lettura in controluce, possiamo dire, della comunicazione visiva e dei suoi effetti sulla pubblicità e sui consumi. La grafica ormai non è più considerata solo una tecnica al servizio degli oggetti e della comunicazione, bensì uno strumento, parte del processo creativo. Un ruolo che emerge soprattutto nei consumi alimentari, come ci racconta Daniela Piscitelli, presidente dell'AIAP, l'Associazione Italiana per la Progettazione Visiva, organizzatrice della Settimana Internazionale della Grafica. Quest'anno si intitolava proprio Design per Alimenti Grafici. Credo che si siano ormai scardinate le vecchie idee legate alla grafica come strumento per convincere il consumatore. Il consumatore non è da convincere, piuttosto è da istruire piuttosto è da considerare come attore attivo nei processi di comunicazione. Soprattutto il packaging, se vogliamo parlare di packaging alimentare o comunque tutti i sistemi di comunicazione, in realtà aprono a degli orizzonti culturali e simbolici molto più ampi, ed è questo secondo me il valore proprio pedagogico della comunicazione, soprattutto in rapporto ad un consumatore diretto. I grafici sono coinvolti oggi anche nella progettazione stessa dell'alimento, non solo quindi nel packaging, è così? Più che grafico io parlerei proprio di designer, e quindi in questo senso anche di designer grafico, nel senso che il prodotto e tutta la filiera legata al prodotto oggi è molto più stretta ed è molto più serrata. Quindi il ruolo del progettista fin dai primi momenti di ideazione di un prodotto diventa fondamentale. E quindi non solo il progettista grafico viene inserito nell'ultima fase del progetto e quindi diciamo come quasi truccatore, no? Solo per fare il make up del packaging, ma invece inserito all'interno dell'intero processo progettuale in qualche maniera e attore egli stesso della realizzazione del prodotto. Quindi ad esempio se si va a fare un biscotto piuttosto che una merendina, c'è anche la parte di design alimentare che entra in gioco. Sì, non solo entra in gioco rispetto alla forma, ma spesso entra in gioco anche rispetto al contenuto, perché il ruolo del design oggi appunto entra proprio anche in merito alle tecnologie delle materie, intese queste sia come materie artefatte che invece come materie naturali, e quindi il valore del consumo, il valore dell'alimentazione, e in questo il ruolo del progettista diventano diciamo una catena abbastanza indissolubile. Il futuro che cosa ci riserva? Quali saranno un po' le tendenze? Ma il futuro secondo me ci prospetta dei tavoli di lavoro sempre di più multidisciplinari, per cui ecco l'esperto di tecnologia della materia, l'ingegnere informatico, l'antropologo, il sociologo, il progettista di comunicazione visiva e il designer di prodotto, questi saranno alcuni degli attori che siederanno intorno ad uno stesso tavolo per realizzare proprio dei progetti che possiamo definire di design partecipato. Non esiste più il progetto super specialistico, ma esiste invece una concertazione all'interno della quale diversi esperti lavorano intorno ad uno stesso tema. Si chiude qui questa puntata speciale di Essere e Avere. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it dove potrete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate. In attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.